peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni a Salpinaz. Oggi ascolteremo tre novità, dischi usciti diciamo negli ultimi tempi, che hanno una qualche rilevanza senza essere capolavori, insomma, anche se qualcosina di interessante aggiuntiva alla normalità direi che ci può essere. Intanto cominciamo da Jonathan Blake, che il disco My Life Matters è anche il disco che ha vinto la classifica di musica jazz. E Jonathan Blake diciamo che è piuttosto portato, come dire, in auge dalle sue qualità, riconosciuto a mio avviso al di sopra delle capacità, è indubbiamente un bravo batterista, questo è sicuramente vero, della nuova generazione, ha lavorato moltissimo, in pratica sono comunque quasi 25 anni che è sulla scena, quindi non è un ragazzetto. Esce dalle fila dell'orchestra di Mingus, che è stata una palestra tra gli anni 90, diciamo gli anni 2000 iniziali, una palestra eccezionale, ha sfornato una miriade di talenti di primissimo piano, e lui sicuramente ne fa parte. È anche molto attivo come sideman, batterista di Kenny Barron, e poi questo regolarmente, insomma. Ha fatto addirittura parte dell'orchestra, solo in un disco, di Maria Schneider. Insomma, è un musicista che ha lavorato anche con, cioè, non solo Kenny Barron, diciamo che è il simbolo del mainstream, ma anche, per dire, di Chris Davis, quindi anche gli stili più diversi, più opposti anche. E ha indubbiamente segnalato una buona capacità di composizione, in questo viene considerato un maestro, e indubbiamente delle qualità le ha. Si può collocare sicuramente nell'ambito di un mainstream ben consolidato e anche di buona qualità. Questo My Life Masters, uscito per la Blue Note, perché Jonathan Blake lavora incide per l'etichetta Blue Note, e vede al sax tenore da Dinah Stevens, che ormai è uno dei sax più attivi come sideman in ogni gruppo, anche come leader peraltro. Poi Julian Baker al vibrafono, che è un nome a mio avviso piuttosto nuovo e piuttosto bravo anche. Al pianoforte, come spesso accade nei gruppi di dove è leader Jonathan Blake, Fabian Almazan, quindi alle tastiere, quindi tastiere elettroniche, pianoforte, Desron Douglas al basso, basso elettrico soprattutto, e DJ Sandan alla percussione, diciamo, e poi in alcuni brani anche Bidal alla voce. E ecco, naturalmente alla batteria, alle percussioni, cimbali e quant'altro, Jonathan Blake. Ascoltiamo due composizioni, due brani che secondo me sono tra i più interessanti di questo disco, che comunque è ben riuscito, anche se a mio avviso è abbastanza sopravvalutato dalla critica, quantomeno. Ascoltiamo. Thank you. Era il gruppo di Jonathan Blake in questo lavoro uscito l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, nella seconda metà dell'anno scorso, e che ha anche avuto riconoscimenti dalla critica, specialmente italiana, ma anche internazionale. Ed è indubbiamente Jonathan Blake riconosciuto come uno dei talenti emergenti nell'ambito della composizione, oltre che del suo strumento, della batteria. E in questi ultimi tempi, diciamo che ha trovato un riconoscimento di alto profilo. Passando ad un altro lavoro, sempre uscito per l'etichetta Blue Note, tra l'altro l'etichetta Blue Note è stata all'inizio di quest'anno molto attiva. Tra la fine dell'anno scorso e inizio di quest'anno sono uscite diverse cose, però difficilmente hanno raggiunto buoni risultati, a mio avviso. Quindi intanto possiamo ascoltare questo disco che è proprio celebrativo del gruppo di musicisti che incidono per questa storica etichetta. Il gruppo è chiamato Out of / Into ed è un gruppo nato per celebrare proprio l'anniversario, l'anno scorso, credo che fosse l'80° anniversario della nascita dell'etichetta più, diciamo, riconosciuta nel jazz, nella storia del jazz, praticamente dall'inizio del dopoguerra. Ha continuato la sua pubblicazione praticamente lavorando con accaparrandosi i lavori di qualunque musicista di talento passasse nell'ambito newyorkese e non solo. Questo gruppo è formato naturalmente da All Star. Questo è il disco intitolato Motion, secondo, perché è appunto il secondo capitolo, il secondo disco che esce con questa formazione. Ed è la formazione è composta da Gerard Clayton al sax, al pianoforte, Emmanuel Wilkins al sax contralto, quindi parliamo di due pietre miliari, diciamo, dell'etichetta, e non solo. Emmanuel Wilkins sicuramente è uno dei sassofonisti, musicisti più creativi, più maturi e anche più interessanti, insomma, del momento. Poi al vibrafono, altro talento di punta dell'etichetta newyorkese, Joel Ross, al vibrafono. Poi, ecco, alla batteria Kendrick Scott e al basso Matt Brewer. Quindi una all-star di musicisti sia famosi come sideman che anche come leader. Il risultato, senza essere all'altezza di quello dell'anno scorso, è però meritevole di una qualche attenzione. Quindi ascoltiamo un brano preso da questa sorta di incontro di condominio, insomma. Thank you. Questo era il supergruppo della Blue Note, Out of Into, disco intitolato Motion Secondo, con appunto, adesso abbiamo sentito il sassofono bellissimo di Manuel Wilkins, il Joe Ross con il vibrafono e vabbè, e tutti gli altri. Il vibrafono, mi rendo conto che è proprio la spina dorsale dell'intera trasmissione, che l'abbiamo ascoltato in questa rivelazione, per me almeno è stata questa del disco di Jonathan Blake e questo Jalin Baker che è veramente ottimo, poi appunto Joe Ross adesso, e nel prossimo è la protagonista, di provenienza cinese, nata a Taiwan, poi si è trasferita per gli studi a New York e ha seguito tutti i passaggi per una preparazione di tipo accademico, e si tratta di Yuan Su, vibrafonista, musicista, piuttosto giovane, ma non alle prime armi, ha già al suo attivo una buona esperienza, ed è uscito con un disco, non è il primo, credo che sia già il settimo, insomma, sono già usciti diversi, però questo ha avuto una certa risonanza nelle riviste internazionali. È un bellissimo lavoro, intitolato Over the Moons, ed è anche una formazione piuttosto interessante. Infatti, oltre al suo vibrafono, che è veramente da sottolineare come qualità, e il sax tenore di Anna Weber, quindi l'ambiente, diciamo, l'ambiente newyorkese è ben rappresentato. Poi al contralto un collaboratore che anche in dischi precedenti, Alex Loré, bravo, un sax contralto bravo e anche flautista. Al pianoforte, ecco un nuovo incontro di Joan Su, che è un incontro importante. Matt Mitchell, pianista bravissimo e che è anche in grado di, come dire, sottolineare la propria personalità dando un valore aggiunto ai lavori ai quali partecipa. Poi una chitarra di Jingda Chen, che francamente non conosco molto, Marty Kenney al contrabbasso e Jean-Paul Naidian alla batteria. Poi Sinia Lin all'elettronica. E vabbè, una formazione dove si sentono voci interessanti, quello di Anna Weber sicuramente, che è una musicista leader anche di proprie formazioni, una compositrice di grande livello. Poi Matt Mitchell, che come pianista abbiamo già detto, e poi anche Loré, che in diverse occasioni si è fatto notare come un ottimo musicista. Ma quello che emerge è proprio la qualità di compositrice e musicista in generale di Joan Su. Un progetto ben riuscito, questo Over the Moons, dal quale ascolteremo tre brani, tutti composti dalla stessa Joan Su. Thank you. Questo era il gruppo di Yuan Su, una vibrafonista cinese che è decisamente interessante, che è al suo nuovo lavoro, Over the Moons, che è uscita per l'etichetta Endoctomorph, un'etichetta evidentemente di nicchia, e che appunto vede la presenza nella propria formazione anche di personaggi noti e importanti come Anna Weber al sax e Matt Mitchell al pianoforte. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko alla sezione musica playlist. Salve a tutti e alla prossima.